Gli speciali di Radio 24. Scuola, quale scelta per i nostri figli? E anche quest'anno è arrivato il momento di scegliere la scuola per il prossimo anno, una scelta indolore per le classi intermedie, ma che può rivelarsi complicata quando invece si finisce un ciclo. Subito qualche informazione di servizio. Al via le iscrizioni il 16 gennaio, che si chiuderanno poi il 6 febbraio. Anche quest'anno la procedura è rigorosamente online per l'iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado. Già a partire dal 9 gennaio si potrà invece accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Le iscrizioni online riguardano anche i corsi dei centri di formazione professionale regionale, almeno nelle regioni che hanno aderito, e per le scuole dell'infanzia, invece questo va ricordato, la procedura resta quella cartacea, mentre per le scuole paritarie l'iscrizione online è facoltativa. Fin qua davvero tutto semplice, perché ormai siamo abituati da qualche anno alla procedura informatica. Vi ricordiamo però che non serve a nulla fare le iscrizioni tutte il primo giorno, anzi il fatto di arrivare prima non garantisce alcun privilegio e si rischia solo di intasare il portale, tale come succede un po' tutti gli anni. Fin qua davvero tutto facile, dicevamo, il difficile invece è scegliere quale scuola sia meglio per i nostri figli. E qua arriviamo noi di Radio 24 ad aiutarvi. Ci rivolgiamo infatti alle famiglie che hanno i ragazzi in terza media e devono scegliere la secondaria di secondo grado, volgarmente detta scuola superiore, ormai non si chiama più così, ma insomma per capirci. L'età è quella che è, non sono più bambini, non sono ancora adulti e noi genitori ci facciamo un po' prendere dall'ansia. A Milano pensate che in questo periodo, e posso testimoniarlo in prima persona, sta dilagando, peggio dell'influenza, il rito degli open day, con ragazzini trascinati da una scuola all'altra in aule magne sovraffollate, dove presidi espongono un po' il loro paese delle meraviglie, in uno stile di marketing che si fa sempre più raffinato. E poi ci sono le lezioni aperte, gli stage di greco, insomma, chi più ne ha più ne metta. Le scuole sono sempre più fantasiose e le famiglie rimangono un po' travolte dalla vastità dell'offerta. Oggi, come ormai succede da qualche anno, cercheremo allora di darvi qualche consiglio utile. Come scegliere la scuola giusta per nostro figlio? Come fare a riconoscere una buona scuola? E quali sono le caratteristiche da valutare? Lo faremo anche grazie ai nostri ospiti in collegamento al telefono, ma anche qui in studio. E cominciamo proprio dai nostri ospiti in studio, cominciamo dai protagonisti di questa puntata, perché poi sono loro i ragazzi di terza media i nostri protagonisti, dei ragazzi speciali, quelli che abbiamo scelto noi, perché sono i ragazzi di Radio Immaginaria che sono qui accanto a me. Radio Immaginaria, per chi non lo sapesse, ma noi ne abbiamo parlato tanto qui a Radio 24, è una radio proprio in mano agli adolescenti, ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni che la gestiscono in toto. Salutiamo subito i nostri ragazzi che sono venuti qui per questa puntata di questo speciale dedicato alle scuole superiori. Federico Boni da Cremona, ciao Federico. Ciao a tutti. E anche Adele Zauli da Ravenna, ciao Adele. Tutti. Qui però in studio con noi ci sono anche Rossana Di Gennaro, che è la dirigente scolastica dell'Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Carlo Porta, l'alberghiero, comunemente chiamato alberghiero, il Carlo Porta di Milano, e anche Laura Comolo, responsabile dell'orientamento in entrata, quindi è lei che coccola gli studenti di terza media. Buongiorno a tutti. Allora, il Carlo Porta è una scuola molto buona, come testimonia anche Eduscopio edizione 2017. Faccio una breve parentesi e spiego che cos'è Eduscopio, perché è uno strumento che può essere molto utile alle famiglie. È lo strumento messo a punto dalla Fondazione Agnelli, che analizza le scuole prendendo in esame un criterio molto importante. Ovviamente bisogna scegliere un criterio, da qualche parte bisogna cominciare per valutare le scuole. In particolare la Fondazione Agnelli ha scelto questo di criterio: il successo degli alunni che da quelle singole scuole escono. Quindi può essere il successo al primo anno di università per i licei, il cui sbocco principale naturalmente è l'università, e il primo anno nel meraviglioso mondo del lavoro invece per quelle scuole che preparano gli studenti sostanzialmente ad immettersi nel mercato del lavoro. Ecco, Eduscopio è uno degli strumenti molto utili per scegliere la scuola ed è anche facile da consultare, perché si inseriscono i dati, cioè la scuola a cui si è interessati, liceo piuttosto che istituto tecnico piuttosto che professionale, si sceglie anche la città in cui si risiede e esce una classifica che possiamo consultare. Allora, Federico, sì. Quanti open day ti sei fatto? Per adesso 3 o 4, diciamo. 3 o 4, e com'è andata? Sono stati utili? Sì, molto, per valorizzare una scuola o meno, più interessante o meno, diciamo. Che tipo di scuola hai visitato? Tu a che cosa saresti interessato? Ai licei. C'è delle scienze applicate, mi interessa molto. Perché diciamo che mi piace molto la scienza, ma anche la tecnologia informatica. Quindi sono più portato, diciamo, per la tecnologia informatica e la matematica. Pensi che sia la tua strada? Sì, perché hanno delle attrezzature che mi piacciono comunque. Hanno dei laboratori abbastanza grandi in cui si può lavorare. Senti, i tuoi genitori che cosa ti dicono? Che per loro va bene qualunque scelta decido di fare. Ti lasciano libero? Sì. Ti accompagnano ovviamente agli open day? Sì, sì. Adele, tu invece che cosa vorresti fare? Già qualche idea? Allora, a me piacciono un po' tutte le scuole, quindi io sono un po'... Ancora incerta. Esatto, però molto probabilmente io sono più portata per ambiti artistici, infatti vorrei fare l'artistico. E ne hai già visitato qualcuno? Sì, ho visto il liceo artistico di Ravenna. Di Ravenna. E mi è piaciuto tantissimo. Dicevamo Carlo Porta, una bellissima scuola, anche Duscopio peraltro certifica questa buona posizione in classifica. Dottoressa Di Gennaro, i giornali quest'anno parlano di open day molto affollati, di famiglie che stanno facendo davvero il tutto esaurito in questi momenti di incontro che sono sicuramente davvero importanti, ma addirittura ci sono state scuole costrette a moltiplicare gli appuntamenti, a prenotazioni da fare con il codice fiscale con larghissimo anticipo. Il codice fiscale probabilmente serve per dimostrare che si è in terza media, perché ci sono molti genitori che iniziano già in prima o in seconda media a visitare le scuole. Insomma, anche da voi avete visto questo aumento non solo dell'interesse, ma forse anche un po' della carica di ansia su queste decisioni? Anche quest'anno abbiamo visto in ottobre un open day molto affollato, credo fossimo circa in 400 nell'auditorium nel quale ci siamo incontrati, e tutti gli open day successivi, che noi chiamiamo mini open day perché sono riservati a un numero limitato di famiglie, sono piuttosto affollati. Laura Comolo. Sì, noi giochiamo proprio su questo aspetto, proprio per venire incontro a queste famiglie che desiderano conoscere direttamente il nostro istituto. Offriamo settimanalmente delle opportunità di incontrare un docente ed alcuni studenti, e riteniamo che questa sia una proposta vincente negli anni, perché hanno proprio la possibilità di collocarsi in base ai loro impegni e di conoscere direttamente l'istituto in un clima anche di calma. Daniele, sei ancora lì? Assolutamente. Ciao Daniele. Scuola.net c'è sempre. Daniele Grassucci, il nostro amico di Scuola.net. Anche quest'anno abbiamo realizzato in collaborazione con Scuola.net un sondaggio proprio sull'orientamento, che la dice lunga su questo tema, perché anche quest'anno non è che ci sono tante belle notizie, è così Daniele? Sì, purtroppo di anno in anno noi ripetiamo questo sondaggio, ma non vediamo dei significativi miglioramenti su alcuni temi, perché a dicembre, il momento in cui è stata proposta questa indagine, un ragazzo su tre in uscita dalla terza media si dichiarava ancora indeciso, e considerando appunto che in teoria le attività di orientamento dovrebbero far arrivare ragazzi preparati, ecco, la dice lunga sull'efficacia di queste attività, che non sempre vengono svolte. Infatti il 20% dei ragazzi denuncia la completa assenza di queste, che invece sono degli strumenti fondamentali. 20% vuol dire 1 su 5, che è un numero significativo, e purtroppo questo numero tende ad aumentare al sud e ridursi al nord. E poi anche quando le attività di orientamento vengono svolte, non sempre sono efficaci, non sempre i ragazzi sono soddisfatti, e soprattutto un ragazzo su 4 tra quelli che hanno svolto attività di orientamento dichiara di non aver ricevuto il consiglio orientativo, cioè quindi di aver ricevuto dalla scuola delle indicazioni chiare sulle possibili scelte più coerenti con le proprie propensioni, con le proprie passioni e con i propri talenti. Invece la circolare del MIUR sulle iscrizioni dice chiaramente che ogni scuola dovrebbe fornire ad ogni studente in uscita delle indicazioni chiare in tal senso. E poi da questo sondaggio emerge anche che le famiglie hanno scarsa conoscenza degli strumenti che hanno a disposizione per valutare le scuole o per conoscerle meglio. Quest'anno è appunto l'anno del pienone per quanto riguarda gli open day, però ancora non si conosce appunto quello che è il portale del Ministero Scuola in Chiaro, che è un portale che in qualche modo permette di dare delle informazioni libere e aperte sulla scuola. Addirittura esiste, ogni scuola ogni anno deve compilare il RAV, che è il cosiddetto rapporto di autovalutazione, che è una sorta di pagella standard che ogni istituto deve compilare per valutare il proprio operato. Ed è un un documento ricchissimo di informazioni. Ad esempio, ritornando su un caso di cronaca, se un genitore avesse letto il RAV del Virgilio, avrebbe proprio letto quello che poi la cronaca ha in qualche modo messo in evidenza, ovvero che ci sono delle problematiche nell'applicazione delle regole e alle volte appunto i genitori si oppongono al dirigente scolastico e quindi impediscono l'erogazione di punizione. Questo era proprio scritto testualmente nel rapporto di autovalutazione, questo per capire che sono dei quindi documenti fondamentali. Un primo consiglio che possiamo dare alle famiglie è anche quello di andare a consultare Scuola in Chiaro, perché riassume molte delle caratteristiche di quella scuola. Sì, dal piano dell'offerta formativa all'edificio scolastico, addirittura si riesce a capire quando è stato costruito, come sono fatti i solai, come è fatto l'impianto termico, come è fatto l'impianto elettrico, insomma veramente ci sono delle informazioni estremamente minuziose. Io voglio andare al liceo classico perché odio la matematica. Io non è che posso tanto scegliere, i miei genitori vogliono che vada nella scuola che hanno fatto loro. Io non ci voglio andare al liceo, si studia troppo e a me non piace tanto studiare. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta... Scuola, quale scelta per i nostri figli? Che io sia, che io fossi, che io sia stato, oh. Oggigiorno chi corteggia incontra sempre più difficoltà, coi verbi al congiuntivo, quindi è tempo di riaprire il manuale di grammatica, che è molto educativo. Gerundio imperativo e infinito indicativo, molti tempi e molte coniugazioni, ma il congiuntivo un ruolo distintivo e si usa per eventi che non sono reali, è relativo a ciò che è soggettivo. Lorenzo Baglioni e il suo congiuntivo pop didattico, è stata ribattezzata la sua musica che piace anche all'Accademia della Crusca. Baglioni parteciperà a Sanremo con la sua canzone che è già diventata virale in rete. E noi torniamo a parlare di come scegliere le superiori, lo facciamo con una persona che sicuramente il congiuntivo lo sa usare, Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Ciao Alberto. Speriamo di non sbagliare il congiuntivo. Ecco, ciao, buongiorno. Non facciamo a tutti. Brutte figure. Allora, Alberto, cosa sta succedendo? Secondo te è un buon segno, un brutto segno questo sold out agli Open Day, questo interesse delle famiglie? Ma da una parte dovremmo dire un buon segno, perché la famiglia si ricoinvolge in modo molto attivo e massiccio in un passaggio di vita così importante per i propri figli. Direi che forse l'aspetto problematico potrebbe essere nel fatto che la scelta della scuola poi rischia di trasformarsi in un'ossessione per i genitori, che fanno un vero e proprio slalom tra una quantità infinita di open day e magari si trascinano i figli che sono i diretti interessati un po' come dei cagnolini al guinzaglio che seguono questi genitori, non comprendendo neanche bene quello che sta succedendo, e quindi diventa un open day che parla alle mamme e papà e che non coinvolge, non interessa, non parla direttamente ai ragazzi, che sono invece il soggetto della scelta. Sì, perché sicuramente è una scelta un po' di tutta la famiglia necessariamente, ma dove devono fermarsi mamma e papà per fare in modo che siano i ragazzi comunque protagonisti delle loro scelte? Ma io direi che si devono fermare nel momento in cui si è fermato il ragazzo, e effettivamente forse il ruolo di mamma e papà è attivare il più possibile un percorso consapevole che il ragazzo fa con il sostegno di mamma e papà e non a volte strattonato, spinto da mamma e papà. Quindi un po' la cosa che direi io ai genitori è prima di tutto non muoversi dominati da un'emozione ansiosa. cioè se l'open day diventa l'ansia di non perdersi neanche un appuntamento con una delle scuole del territorio perché voglio vedere tutto, voglio sapere tutto, ecco, quello probabilmente è già un meccanismo sbagliato, perché è un po' come dire sarà la scuola giusta che mi sceglie, invece io che faccio un percorso per andare a scegliere la scuola giusta. Il secondo aspetto è scegliere degli open day che sono mirati rispetto al progetto di orientamento che è stato prospettato per il ragazzo, quindi non tutte le scuole del mondo, ma poche scuole con una scelta oculata, e quando andiamo lì invece facciamo un serio lavoro di analisi di qual è l'offerta formativa. Direi che in realtà la scelta poi della scuola superiore dovrebbe essere proprio una triangolazione tra quello che ha in mente il genitore, quello che ha in mente il ragazzo e trovo molto importante anche quello che ha in mente la scuola che è stata frequentata dal ragazzo, che ha una visione molto oggettiva delle competenze e delle attitudini dello studente, che quindi può davvero già fornire una linea di indirizzo, un sostegno. Quindi fidarsi dei consigli orientativi, insomma. Esatto. Alberto, grazie mille per il tuo prezioso contributo. Federico e Adele, tu hai già detto, Federico, che non ti sei sentito costretto dalla tua famiglia in nessun senso. Tanto. Senti che ti stanno aiutando nel modo giusto, sì, lasciandoti libero. Tu, Adele? Sì, anch'io. A me non. Cioè, io posso scegliere tutto quello che voglio, che i miei mi seguono. Ok. Fidarsi del consiglio orientativo, dicevamo, è un buon momento per introdurre la nostra nuova ospite. Si tratta di Chiara Galdi. Sì, buongiorno. Salve, buongiorno. Insegnante alla secondaria di primo grado Italo Calvino all'interno dell'Istituto Comprensivo Don Milani di Vimercate, quindi siamo in piena Brianza. Esatto. Ed è la referente per l'orientamento insieme ad un'altra collega, la professoressa Schilirò, che segue l'altra scuola media, invece la Donzeno Saltini di Oreno di Vimercate. Ho fatto bene la presentazione? Sì, certo, perché gli alunni da seguire sono tanti. Sono tanti. Devo essere in due. Alberto Pellai diceva, prima regola per le famiglie fidarsi del consiglio orientativo. Indicativamente in generale le famiglie si fidano, anche perché il consiglio orientativo non è qualcosa di estemporaneo che nasce così in un momento soltanto in cui il consiglio di classe tutto riunito si trova a stenderlo, ma è il risultato di un percorso che per esempio nella nostra scuola inizia addirittura dalla prima media, perché noi abbiamo istituito la figura del tutor, che è un docente della classe che segue i ragazzi dalla prima media, proprio perché diventino sempre più consapevoli di chi sono e arrivino quindi poi a scegliere la scuola superiore, a quell'ultimo passaggio della terza media, nel modo più responsabile e dopo essersi guardati dentro. Certo. Quindi noi in vari momenti dell'anno incontriamo individualmente per alcuni colloqui i nostri ragazzi per invitarli a riflettere su di sé, a scoprire un po' le proprie attitudini ma anche i propri limiti, guardarli oggettivamente senza paura, senza ansia, ma per poter poi scegliere adeguatamente. Poi facciamo con loro in terza dei test di orientamento sui loro interessi e sulla conoscenza di sé, sull'autostima che anche hanno maturato. Quindi poi anche con le famiglie condividiamo tutto questo lavoro che abbiamo fatto con i ragazzi e di solito arriviamo a una condivisione. A una condivisione. Rosana Di Gennaro e Laura Comolo, voi invece che alle superiori li vedete arrivare questi ragazzi, cosa potete dirci del consiglio orientativo? Quelli che vedete arrivare e hanno seguito il consiglio orientativo hanno fatto la scelta giusta? In linea di massima sì, si conferma che loro hanno fatto una scelta oculata e meditata. Infatti anche noi nei nostri open day consigliamo sempre alle famiglie di fidarsi di quello che gli insegnanti delle scuole medie dicono loro, perché comunque hanno avuto in carico per quasi 3 anni i loro ragazzi e quindi sicuramente conoscono le potenzialità, quindi siamo perfettamente d'accordo. Siete allineati. Però io perché ho chiamato in particolare Chiara Galdi dell'Italo Calvino di Vimercate? Perché la sua scuola, un po' ce l'ha già accennato, lavora moltissimo sull'orientamento e anche molto bene, ma anche il rapporto con il mondo del lavoro. Di solito è una cosa che si fa forse con i ragazzi delle superiori, voi iniziate invece già dalle medie. Siamo nella ricca Brianza, quindi ci sono tante aziende, una disoccupazione giovanile bassa. Come preparate i ragazzi a questa scelta? Ma di solito già dalla seconda cerchiamo di organizzare delle uscite in alcune aziende del territorio attraverso l'associazione I Maestri del Lavoro, che ci guida, ci accompagna nella visita di queste grandi aziende, grandi e piccole aziende, e sono dei momenti sempre molto interessanti per i ragazzi. Si portano poi a scuola un'esperienza molto positiva, perché entrano in ambienti di lavoro molto diversi e parlano con dei professionisti, capiscono concretamente cosa significa quella professione, ma poi in generale la realtà del mondo del lavoro, e forse anche come si arriva a quella professione, no? Che non sempre sempre significa andare per esempio a un liceo, perché insomma infatti che si possono fare tanti percorsi diversi, perché nelle aziende ci è capitato di incontrare sì il direttore dell'azienda, ma anche gli operai specializzati con qualifiche diverse. A qualcuno dei vostri studenti forse si accende qualche lampadina in questo senso? Infatti, che cerchiamo anche molto di valorizzare anche l'ambito del professionale, perché anche quest'anno abbiamo per esempio nella nostra scuola invitato alcuni genitori dei ragazzi, che ogni anno sono sempre molto disponibili a venire a raccontare nelle classi dei propri figli le loro esperienze lavorative, cercando di portare proprio il mondo del lavoro nelle aule della scuola. I ragazzi li intervistano. Grazie a Chiara Galdi dell'Italo Calvino di Vimercate. Rosanna Di Gennaro, invece, a chi possiamo consigliare di andare all'alberghiero? Quali sono le caratteristiche che dobbiamo individuare nel nostro figlio che ci fanno dire forse sì, potrebbe essere la scuola giusta? Allora, senza dubbio l'Istituto Alberghiero è un corso di studi che si sceglie sulla scia di un forte interesse, se non addirittura di una passione. Infatti c'è la possibilità di seguire percorsi professionalizzanti sia per quanto riguarda la cucina, sala barra, accoglienza, turistica, e è importante sottolineare che la scuola offre non soltanto una preparazione dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista della cultura generale nel suo complesso. Quindi al termine del corso di studi, che va affrontato insomma con impegno e costanza, si lavora anche tantissimo, si lavora a scuola ma anche fuori della scuola nel percorso di alternanza lavoro. Ecco, al termine di questo percorso, se fatto bene, è aperta tanto la possibilità di entrare subito nel mondo del lavoro, e anche con posizioni abbastanza interessanti, quanto è possibile invece proseguire nell'ambito della carriera universitaria, iscriversi all'università e perfezionare i propri studi. Voi ragazzi avete fatto qualche incontro per esempio con il mondo del lavoro, con le vostre scuole, vi è stato proposto? Ci hanno fatto vedere un po' i lavori che si richiedono oggi oppure si richiederanno nel futuro. Invece anche... tu Adele no Adele, sono venute le scuole a raccontare quello che facevano. Sì, esatto, sono venute, cioè nell'aula magna c'erano questi banchetti dedicati a tutte le scuole. Noi salutiamo Federico Boni e Adele Zauli, perché sono venuti altri due ragazzi di Radio Immaginaria a trovarci. Lasciamo un po' spazio anche a loro. Noi ci ritroviamo fra pochissimo. Io da grande voglio fare il cuoco e vado all'alberghiero. Io voglio fare il liceo classico perché ci vanno tutte le mie amiche. I miei genitori vogliono che faccia un liceo perché dicono che mi apri il cervello. Scuola, quale scelta per i nostri figli? Mississippi e nemmeno Atlanta, ma non so che cosa c'è nella mia pelle bianca, che a 14 anni mi ha fatto sentire come nato a Hollis, Queens, ma sotto falso nome. Ho il passaporto italiano e un cuore mediterraneo, working class hero, con un amore spontaneo per la botte piena e per la moglie ubriaca. La base aerospaziale nel centro di Aracataca, Gabo Marquez, Valentino Rossi ed Happy Days, Diego Velasquez è stato ben nativo per Walk This Way. E quando senti il richiamo della foresta, è la mia musica e la tua festa. Come posso io non celebrarti vita, oh vita, oh vita. Skip, skip, dive, socializza, ritmo mozzarella. Torniamo sul sondaggio di scuola.net e Radio 24 sull'orientamento. Daniele, pensano i ragazzi al lavoro che vorranno fare quando scelgono le superiori o è ancora troppo distante da loro? In realtà il lavoro è un tema che è presente, la metà dei ragazzi inizia già a pensare a quello che sarà il lavoro che appunto andranno ad affrontare quando saranno adulti, anche perché il futuro ha una paura principale, che è quella appunto di essere disoccupati, di non riuscire a trovare lavoro. E a questo punto io lo chiedo anche a Sofì Taila Colarossi, che ci ha raggiunto da Ravenna, ciao sì. Sofì, ciao. E a Giovanni Catanese da Bologna invece, altri ciao. Due ragazzi di Radio Immaginaria che noi davvero ringraziamo tantissimo per essere qui con noi. Voi ci pensate al lavoro quando pensate alla vostra scelta per le superiori o ancora un po' lontano? Cioè, diciamo che non ho ancora le idee chiare, però sono indirizzato a un certo argomento, diciamo. Qual è questo argomento? Ce lo dici? L'informatica. Sei un appassionato di informatica? Sì, mi piace stare lì e provarci. Mm-hmm. Quindi ti piacciono i computer, quindi ti piace la matematica? Sei bravo in matematica? Anche, sì, abbastanza. Mm. E che scuola hai visto? Allora, ho visto 3 licei e un istituto tecnico commerciale per ora, gli Open Day. Licei di che genere? Scientifici. Scientifici. E che idea ne hai ricevuto dalle visite che allora, hai fatto? Allora, sembrano tutti molto accoglienti e belli, però non so se poi alla fine voglio davvero fare l'università o no. Nel dubbio? Nel dubbio ci penso a febbraio. Mm. Sofì, invece tu che idee ti sei fatta? Io intendo andare all'università al MIT. Però la sì. ragazza punta in alto. Mi piacerebbe soprattutto lavorare in ambito spaziale, mm-hmm. e quindi per esempio lavorare nella NASA, mm-hmm. e per questo penso che dovrò affrontare un percorso scientifico. Sì, è anche bello impegnativo, te lo dico, sì. Fai bene a puntare in alto, ma è bello impegnativo. Sì. Quindi liceo scientifico, ne hai visti un po'? Per adesso ho visto un liceo classico e non sono rimasta... Così, per poterlo escludere. Sì, esatto. Non sono rimasta molto convinta. E a Ravenna il sabato ci sarà l'Open Day dello scientifico e io intendo andarci. Intendi andarci e forse lì ti si accenderà qualche bella lampadina. Sì. Tra l'altro io so che voi di Radio Immaginaria siete fortunati perché avete potuto già conoscere molto del mondo del lavoro con il quale fra qualche anno avrete a che fare sicuramente. Avete partecipato anche a un bel progetto, Industriamoci. Sì, alla Team Parade. Che cosa allora, avete fatto? La Team Parade diciamo è uno dei più grandi eventi di Radio Immaginaria che spiega il lavoro a noi adolescenti. Quindi spiega proprio come si fa a fare un certo lavoro. Do you like working with human beings? Most of the time, yes. My colleagues are really nice, but sometimes they turn me off when I speak too much and annoy them. This is not right. I will complain with the labor union. Eh sì, quello che parla è proprio un robot ospite di Team Parade, organizzata come dicevamo proprio da Radio Immaginaria, perché il mondo del lavoro che ci aspetta e che aspetta i nostri studenti ha molto a che fare con il mondo della robotica, della programmazione, dell'innovazione tecnologica. Daniele, stiamo vivendo un momento di grandi cambiamenti. Sì, assolutamente. Si stima che il 60% dei lavori che i ragazzi che oggi sono a scuola andranno a svolgere quando saranno adulti non è stato nemmeno inventato, per cui ecco, in questo contesto risulta difficile anche aiutare i ragazzi a scegliere in base al lavoro, proprio perché appunto c'è questa incertezza e soprattutto questa velocità di cambiamento. Però una cosa è certa, gli esperti sono concordi nel tracciare quella che è una linea di competenze che tutti gli studenti dovrebbero avere. E sicuramente quelle matematiche logiche, la programmazione, ecco, saranno delle dominanti, però perché la tecnologia sarà sempre più diffusa in vari settori, quindi non si potrà non avere la capacità di interagire con le macchine, di programmare, di maneggiare i dati, quindi ecco, la matematica sicuramente sarà importante, però saranno anche importanti quelle che sono le scienze umane, le abilità umane, quindi la capacità di relazionarsi, la capacità di lavorare in team, l'empatia, cioè quindi la possibilità di capire le emozioni delle persone e relazionarsi con le stesse. Quindi bisognerà coniugare un po' del sapere umanistico con un po' del sapere scientifico e soprattutto avere una capacità di adattamento e quindi in tempo rapido di riuscire ad adattarsi al mutevole scenario. E a questo noi dovremmo preparare i nostri ragazzi. Assolutamente. Un altro che se ne intende tantissimo di innovazione tecnologica è il nostro prossimo ospite, Salvatore Giuliano, che salutiamo. Ciao. Ciao, salve, grazie, buonasera a tutti. dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Settore Tecnologico, anche Liceo delle Scienze Applicate di Brindisi, il famosissimo Ettore Majorana. Dico famosissimo perché anche questo istituto è in vetta nella classifica di Eduscopio, è salito alla ribalta, ormai sono tanti anni, devo dire, con il progetto del Book in Progress, che consente ai docenti di produrre libri di testo. Poi qui a Brindisi ormai libri e quaderni hanno fatto un po' il loro tempo, no? Hanno lasciato spazio a tablet, supporti tecnologici di ogni tipo. Il Majorana ha vinto un sacco di premi, oggi googlavo, come si suol dire, ho visto che davvero avete vinto un sacco di premi e avete, siete entrati a far parte della rete globale delle scuole Changemaker. Mi sembra di aver visto addirittura che si studiano biologia, chimica, astronomia e storia dell'arte con la realtà virtuale di Oculus Rift. Anche quello. Qua il futuro è già arrivato, insomma, al Majorana. Ci divertiamo, cerchiamo di rimanere al passo con i tempi e soprattutto cercando di coinvolgere nel miglior modo possibile la creatività enorme degli studenti, di tutti gli studenti, tutti i ragazzi. Giuliano, quanta gente arriva ai vostri Open Day? Ne abbiamo fatto ancora uno ed è stato un boom, perché credo abbiamo contato circa 500 persone tra alunni, genitori, nonni, perché agli Open Day oramai è proprio una visita di famiglia, quindi molte famiglie vengono, quindi non solo con l'alunno, ma viene la mamma, viene il papà, come giusto che sia, ma alcuni portano anche i nonni e gli zii. È una scelta. È una scampagnata famiglia. Praticamente è una, ormai. Senti, ma quanto c'è di vero e quanto c'è di marketing, lo possiamo dire, non ci sente nessuno, in quello che presentate voi dirigenti scolastici negli Open Day? Beh, è evidente che ogni scuola cerca di presentarsi al meglio. Al netto di tutto quello che si può vedere durante la giornata dell'accoglienza, dell'apertura, dell'orientamento, Open Day che si voglia, io consiglio alle famiglie, ai futuri alunni, di poter chiedere di partecipare ad una giornata ordinaria di lezioni, quindi essere inserito in una classe per vedere un attimo come realmente poi si svolge una giornata scolastica, come i ragazzi vengono coinvolti, come si lavora, perché molto spesso si annunciano tante cose e in molti casi anche queste cose vengono rispettate e vengono svolte. Ecco, voi avete puntato moltissimo al Majorana di Brindisi sull'innovazione tecnologica. Un consiglio che possiamo dare ai genitori è quello di diffidare da scuole troppo tradizionali? No, assolutamente. La tecnologia che noi utilizziamo in ogni attività è uno strumento. E io diffiderei invece di quelle scuole che utilizzano la tecnologia senza cognizione di causa. Questa è una cosa molto pericolosa e molto spesso mi capita di conoscere, di apprendere di realtà che scolastiche dove hanno introdotto la tecnologia ma senza un progetto di formazione che ha riguardato i docenti, che ha riguardato anche gli alunni all'utilizzo più intelligente del dispositivo tecnologico. La tecnologia è solo uno strumento, quindi non cambia assolutamente nulla. Se usato con cognizione di causa può far venire fuori quelle che si diceva prima essere le abilità, le cosiddette soft skills, quindi la capacità di lavorare in gruppo, di sintetizzare i lavori di un gruppo, e saranno quelle competenze che faranno la differenza quando nel 2034 il 60-75% dei lavori che si faranno nel 2034 ancora oggi non sono stati inventati. Però la scuola, come dicevamo, la fanno ancora il progetto, quindi il lavoro del dirigente scolastico e soprattutto gli insegnanti e non solo le tecnologie, perché nella mia esperienza anche professionale ho visto tante scuole sbandierare LIM o sbandierare tablet, esatto, eccetera, poi gli stessi professori non le sanno usare, o comunque se non c'è una classe di insegnanti preparata queste tecnologie perdono un po' di senso e di valore. Assolutamente, diventano anche controproducenti, questo per mia esperienza diretta, perché la tecnologia è chiaro che se la utilizzi in maniera tradizionale, cioè facendo la lezione tradizionale, non è una operazione molto intelligente, ritengo, quindi devi anche cambiare il modo di svolgere la lezione. Assolutamente, quindi agli Open Day guardare anche oltre le tecnologie che vengono mostrate comunque. Assolutamente, la differenza credo che si giochi sul come si fa scuola, non su cosa si fa. La differenza oggi, la partita la giochiamo su come si fa scuola, quindi un modo di nuovo, perché i ragazzi cambiano ogni 3 anni, cambiano le generazioni, il loro approccio alle modalità di apprendere, di socializzare, e quindi una scuola che sia al passo sul come si fa scuola. un come che coinvolga i ragazzi. Istituto Tecnico Settore Tecnologico, il Maiorana, a chi consigliarlo? Sì. Cioè, che caratteristiche dovrebbero avere i ragazzi, grosso modo, per poter andare in un istituto tecnico settore tecnologico? Noi siamo essenzialmente nell'istituto tecnologico dei chimici, quindi la chimica diventerà molto, molto presente nelle loro giornate di lezione. E quindi se si sceglie un istituto tecnologico appunto sulla base di quelle che possono essere le aspirazioni dei ragazzi, che peraltro maturano nel corso della scuola secondaria di secondo grado, normalmente il grosso sceglie intorno al terzo o quarto anno, quindi un anno o due anni prima, molto probabilmente forse si dovrebbe fare un discorso di orientamento più mirato, più attento già nella scuola secondaria di primo grado, le scuole medie insomma. Certo, grazie a Salvatore Giuliano a del Maiorana di Brindisi. Io voglio andare al liceo scientifico perché mi piace la matematica e voglio imparare a usare bene il computer. Io voglio fare il liceo classico perché mi piace studiare e anche per mettermi alla prova. Io sto andando agli open day con mia madre, tanto alla fine decide lei. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta. Scuola, quale scelta per i nostri figli? È difficile accettare avventure già vissute, ma in fondo è questa vita che è piena di sorprese. Quei ricordi ormai sbiaditi, rieccoli prepotenti, come se nulla fosse, ritornano tra i denti. Se gli esami non finiscono, non cambiano le attese, e nei giorni che ci aspettano, 100.000 candele accese, che si spengono in un secondo, non appena le vuoi soffiare. C'è qualcosa che ci spinge, e è difficile cambiare, e per quelli come noi, che si sentono insicuri, c'è soltanto una risposta, a volte siamo un po' immaturi. Ragazzi insicuri e maturi, quelli descritti da Alex Britt. Chiacchierando con i presidi è venuto fuori che gli studenti di terza media di questi ultimi anni si mostrano un po' più immaturi di quelli di qualche anno fa. Più di un preside mi ha detto questa cosa. Rosanna Di Gennaro, anche voi avete notato questa cosa o no? L'impressione è che i ragazzi, forse perché come dicevamo prima, nella nostra scuola arrivano ragazzi che hanno comunque una motivazione alla base della loro scelta, vediamo che già dal primo secondo anno hanno le idee piuttosto chiare su quello che desiderano ottenere, gli obiettivi che vogliono raggiungere, tant'è vero che noi vediamo già al secondo anno hanno le idee abbastanza chiare sull'indirizzo che vorranno scegliere. Qualcuno addirittura già alla fine del secondo anno chiede già di fare attività di stage, tirocinio fuori della scuola, quindi tutto sommato ci sembra che siano belli, sicuri di loro. Laura Comolo, è così? Sì, confermo, perché i nostri propri open day mirano a spiegare la scuola. È vero che dobbiamo vendere sempre anche noi il nostro prodotto, però noi preferiamo venderlo dicendo la verità e dicendo quindi contando le famiglie le fatiche che i ragazzi andranno a incontrare, ad affrontare. Sia nel percorso scolastico nostro dei 5 anni, sia quelle che saranno nell'ambito lavorativo, e quindi una volta che arrivano sono consapevoli, maturi, tant'è che il nostro tasso di non promozioni è veramente molto molto basso, e anche coloro che desiderano poi cambiare scuola è molto basso. E tra l'altro è significativa questa cosa di come Carlo Porta comunque prepari bene e aiuti anche nella scelta, in quanto i ragazzi che hanno cambiato per andare a dei licei oppure a dei licei linguistici e scientifici. Sofì, tu le idee chiare ce l'hai, quindi non possiamo dire che sei insicura, tu punti già sulla NASA, prima il MIT poi la NASA, quindi insomma, ma i tuoi insegnanti a scuola ti stanno aiutando in questo percorso, ti stanno incoraggiando oppure ogni tanto ti dicono sì vabbè Sofì adesso la NASA? La mia prof di matematica in particolare mi spinge molto a volere di più da me stessa e dice che È molto esigente? Sì, sì, molto. Ma lo fai in maniera carina, che in effetti poi ti spinge a fare di più, o ti senti un po' ogni tanto, insomma, ti arrabbi perché è troppo severa con te? Sì, ogni tanto mi sento un po' sotto pressione, però comunque capisco che lei voglia molto da me perché pensa che io abbia del potenziale, quindi mi sento molto onorata. E lei dice spesso, per esempio, a mia madre quando la incontra, Sofì deve andare al liceo scientifico tradizionale perché è bravissima. Allora io rimango molto... Senti, i tuoi genitori che dicono? Sono contenti di questa scelta del liceo scientifico? Sì, i miei genitori sono molto contenti perché loro vengono entrambi da istituti professionali e secondo me sono... Sono contenti, orgogliosi. Sì, orgogliosi. Sono molto orgogliosi. E invece tu, Giovanni, vieni aiutato dai tuoi insegnanti nella tua scelta? Ti motivano? Perché a volte io ho sentito anche gli altri anni alcuni ragazzi, alcuni vostri coetanei che raccontavano di insegnanti che giocano un po' al ribasso, no? Dicono: ma no, non andare, quello è troppo difficile, non ce la puoi fare. No, beh, non mi dicono proprio non ce la puoi fare, però mi dicono... preferibilmente vai a un liceo tecnico perché sei sicuro che riesci a passarlo. Istituto tecnico, quindi nel tuo caso ti consigliano l'istituto tecnico. Sì. Mm-hmm. Ti fidi dei tuoi insegnanti, sono dei buoni interlocutori? Sì, hanno più esperienza di me innanzitutto, quindi... Giustamente. Vado a fidarmi di loro. Ne hanno visti altri di ragazzi oltre te. E noi salutiamo il nostro prossimo ospite, che è un dirigente scolastico di un liceo scientifico. Quindi Sofì, se poi vuoi fare qualche domanda. Ottavio Fattorini, dirigente scolastico del liceo scientifico La Briola di Ostia, alle porte di Roma. Benvenuto a Radio 24. Grazie. La sua scuola, la Briola di Ostia, ha adottato il progetto DADA, che sta per didattiche per ambienti di apprendimento. Che cos'è il DADA? Quindi questa scuola come è fatta? Il DADA è un progetto nato in contemporanea al liceo La Briola di Ostia, al liceo Kennedy di Roma, che le cui comunità si sono trovate a mettersi in discussione per domandarsi cosa poter far meglio per i nostri giovani, e hanno trovato come risposta il movimento degli alunni nei campi della lezione, facendo sì che il docente possa avere un'aula che diventa appunto un ambiente di apprendimento arredato e funzionale alla disciplina. Quindi c'è l'aula di scienze, i ragazzi si spostano nell'aula di scienze, c'è l'aula di italiano, i ragazzi si spostano nell'aula di italiano, non sono i professori che gironzolano, ma sono gli studenti. Esatto, proprio così. Ci vuole un bel coordinamento, perché tutti questi ragazzi che vagano, non è complicato? Esatto, ha colto nel segno, perché proprio questo è il punto caratterizzante, oltre a, diciamo, poter sembrare un modello anglosassone e scandinavo, in realtà la cifra, ciò che caratterizza il progetto, è la responsabilità e la fiducia data ai ragazzi. Noi muoviamo 1.400 minorenni a fronte dei 50 maggiorenni professionisti mediamente presenti nell'istituto, e questo però ha messo in moto tantissimi meccanismi virtuosi, perché i ragazzi hanno risposto con responsabilità alla fiducia che abbiamo accordato loro. Fattorini, perché scegliere un liceo scientifico, visto che il vostro appunto è uno scientifico? Intanto bisogna scegliere se le caratteristiche dello scientifico incontrano le attitudini, le vocazioni, i sogni, i valori dei ragazzi che lo vanno a scegliere. Sicuramente è una scuola che ha un approccio, essendo un liceo, un approccio analitico, e quindi diciamo, dall'analisi si arriva poi successivamente a sintesi più evolute, però insomma un approccio analitico richiede un grande impegno. E perché? Perché riesce a contemperare appunto le discipline, in alcuni casi il latino, in altri l'informatica, a seconda dell'opzione. Nella mia scuola c'è sia il liceo scientifico cosiddetto tradizionale che l'opzione scienze applicate, che rispetto all'altra si differenzia per la presenza di informatica al posto del latino. È chiaro che le competenze che ci chiede l'Unione Europea per il futuro sono sempre più volte alle STEM, alle discipline matematiche, scientifiche, eccetera, e quindi una preparazione dello scientifico è ovviamente volta a quel tipo di settore, a quel tipo di studi. E poi c'è anche delle grosse valenze trasversali, perché se uno acquisisce la capacità di saper studiare in modo analitico, acquisisce un metodo di studio, lo userà qualsiasi cosa vorrà fare nella vita, insomma. Grazie Fattorini, buon lavoro. Grazie a voi. Allora, chiudiamo questa puntata con i nostri ospiti in studio. In una battuta, Rosanna Di Gennaro, che consiglio possiamo dare per scegliere una buona scuola alle famiglie? Ma sicuramente il consiglio alle famiglie è quello di sentire e capire quella che è l'inclinazione dei propri figli. Poi, ripeto, nel caso di un istituto professionale, certo ci vuole anche un interesse specifico nei confronti della materia, sicuramente guardare anche quelle che sono le prospettive future, perché in momento di crisi economica mi rendo conto che la preoccupazione dei genitori è capire cosa faranno dopo. E nel vostro caso devo dire che mi raccontavate di ragazzi che possono scegliere il lavoro uscendo dalla vostra scuola. Il consiglio che vorrei dare è di non sottovalutare il valore e la potenzialità dell'istituto professionale, perché ad esempio un alberghiero non produce, non sforna il cuoco, il cameriere o il receptionist, ma delle persone, delle figure professionali che hanno anche la possibilità di raggiungere livelli molto alti nella carriera. Noi tra i nostri ex allievi abbiamo anche molti cuochi, molti pasticceri di fama ormai internazionale, persone che si muovono tranquillamente, insomma, a livello globale nel settore del turismo. Quindi non ritenere che questo sia quello dei professionali, in particolare dall'alberghiero, un istituto di studio di basso livello, ma anzi che dà tantissime possibilità lavorative, tant'è che, come dicevi, qualcuno può anche scegliere tra diverse proposte di lavoro, insomma, quella più interessante. Addirittura, per Laura Comolo, un'ultima battuta, un consiglio ai genitori, alle famiglie. Siate fiduciosi dei consigli che vi danno gli insegnanti della scuola media e ascoltate bene quello che vi viene detto negli open day, e non quello che vedete, ma quello che ascoltate, perché sicuramente la scuola si presenta non per come è bella, brutta che sia, ma per la qualità dei progetti che vengono messi in atto. Proposti. Giovanni, invece un consiglio agli insegnanti, che questo consiglio orientativo lo devono scrivere, che vi devono aiutare in questa scelta. Il consiglio che darei è: cercate di assecondare un po' i ragazzi e di capire cosa vogliono fare davvero, perché il vostro giudizio orientativo è davvero importante poi sulle famiglie, non è una cosa leggera. Ecco. Sofì, un consiglio agli insegnanti? Per me dovrebbero ascoltare moltissimo quello che dicono i loro alunni e soprattutto dare delle risposte chiare, perché in questo periodo siamo sempre più indecisi, e quindi avere una via retta è molto più un'indicazione utile. Precisa che vi aiuti, sì, un po', insomma, perché senti il bisogno di qualcuno che in effetti vi aiuti un po'. Grazie sì, ai ragazzi di Radio Immaginaria, grazie a Rosanna Di Gennaro e Laura Comolo che sono state qui in studio con me, grazie in regia Andrea Roccabella e redazione a Laura Faggin. Un saluto da Maria Piera Ceci.